Ebbene, se vi state chiedendo quale sarà il futuro del modo di produzione capitalistico, se lo spazio, il cosmo diverranno anch'essi un grande supermercato, bene, siete sulla trasmissione, nella trasmissione adeguata per rispondere a queste domande, Bimo, giusto? E la risposta è sì. La risposta forse è sì, noi propendiamo per il sì. Questa è Boca Chica Cosmodrome, è l'unica trasmissione al mondo che tratta di espansione capitalistica nello spazio e questa è la nostra sigla. Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. Para verlo, pasaba el tiempo. No dice nada de ti. Allora, bentornati in questi paraggi di Boca Chica Cosmodrome, come tutti i giovedì in diretta dal centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino di Roma sulle frequenze di Radio Forte. Ciao, esatto. Bimo. Ciao, ogni maledetto giovedì. Esatto, e poi scopriremo che in studio qui con noi c'è anche il fatidico Ray Max, a cui questa sera abbiamo chiesto un grande favore, chissà se ce lo fa, Bimo, che dici? Boh, secondo me no. No, vabbè. Allora, dicevamo, l'unica trasmissione al mondo che si occupa di capitalismo spaziale, siamo già alla seconda stagione, siamo alla settima puntata. E vi invitiamo intanto, come facciamo tutte le puntate, a andarvi a sentire l'archivio delle puntate precedenti, soprattutto quelle della stagione precedente, perché lì spieghiamo molte più cose di questa edizione, che è più light, giusto? Sì, parecchio più light, perché dà per scontato una serie di questioni. Sì, dei pipponi di due ore, però assolutamente, una serie di pipponi. Sì, assolutamente, assolutamente utili. Beh, stasera torniamo un po' con un pippone alla vecchia maniera. Sì, beh, sarà un pochino più leggero, però riprendiamo uno dei nostri grandi cavalli di battaglia. Sì, la ONU interplanetaria. La ONU interplanetaria, e però diciamo virata con qualche piccola novità. Sì, beh, allora sicuramente non anticipiamo troppo, è sicuramente un argomento del liberalismo interplanetario, però noi lo facciamo anche nostro, perché non è detto che ci sia tutto del male lì dentro o che qualche volta non si accorgano di mettere anche degli elementi socialisti in questa cosa. Chissà se si accorge a volte. Beh, allora vi ricordiamo che appunto, oltre ad avere il sito, oltre ad avere la pagina dove ci sono le nostre vecchie puntate, le trovate su forteprenestino.net nella slot della radio, nella slot Boca Chica, c'è anche il nostro Telegram, sempre più vissuto, sempre più popolato da questo punto di vista. Folle di persone che ci fanno domande. Infatti abbiamo una rubrica che si chiama Cuore Matto, che è la rubrica di Ray Max, che raccoglie tutte le vostre domande, che non vengono solo da lì, vengono anche da altri luoghi, e che le canalizza verso questa diretta. E noi non rispondiamo. Noi generalmente cerchiamo di non rispondere, di essere molto vaghi, però insomma, esatto, o comunque perché siamo impreparati. Dare risposte molto molto vaghe. E, caratteristica di questa stagione, sicuramente i nostri 45 giri, presi da una vecchia edizione di un'enciclopedia chiamata L'uomo e lo spazio di Agostini, se non sbaglio, in cui i nostri eroi si sono dati il compito di raccogliere tutte le trasmissioni, insomma anche un po' documentaristiche, riguardanti la prima era spaziale. Risale questa enciclopedia risale al 67, se non sbaglio, e da cui noi per ogni puntata tagliamo un piccolo contributo. Esatto. Ci piace anche, soprattutto per le atmosfere. Esatto, e anche per l'addizione di chi parla, che è veramente incredibile, encomiabile. Esatto. Questa sera Soyuz, quindi Bimo, a te la regia di questa. Partiamo. Aprile 1967, ore 3:35 di Mosca. È stata lanciata dalla base di Baikonur la Soyuz 1, pilotata dal colonnello Vladimir Komarov, l'uomo che è già stato il comandante della Voskhod 1. A quanto informa la TASS, scopo della missione è il collaudo di un nuovo veicolo spaziale, oltre alla realizzazione di esperimenti scientifici e psicotecnici. Komarov, alla quinta orbita, comunica che è in ottime condizioni fisiche. La temperatura e la pressione dell'abitacolo sono normali. Ma il giorno dopo, alle 17:20, un comunicato di Radio Mosca desta sgomento nel mondo. Alla 19ª orbita, Komarov aveva iniziato l'operazione di rientro sulla verticale del continente africano. Ma quando la navicella era già rientrata con successo nell'atmosfera e si trovava ad un'altitudine di 7 km da terra, le funi del suo paracadute principale si sono attorcigliate e il cosmonauta è precipitato al suolo, trovando la morte. Questa la scarna cronaca moscovita. La Soyuz, la nuova macchina dello spazio, alla quale i tecnici di Baikonur hanno affidato l'impresa di costruire quelle piattaforme spaziali dalle quali si salperà per la Luna e gli altri pianeti, è stata un fallimento. Dovrà passare quasi un anno prima che l'uomo ritorni a volare sulle macchine del cosmo. A Mosca è nominata immediatamente una commissione d'inchiesta per stabilire le cause del disastro e per accertare che nelle future missioni non si debbano ripetere tragedie come quella di Komarov. Anche se i risultati dell'inchiesta non hanno mai raggiunto l'Occidente, sarà chiaro dal lungo periodo di stasi delle imprese spaziali sovietiche dopo il fallimento della Soyuz 1 che il Cremlino ha dettato nuove direttive e ha ridotto gli stanziamenti per le imprese spaziali. Non è passato che qualche mese dalla tragedia americana dell'Apollo 012 che ha fatto versare ai giornalisti fiumi di parole sulla mancanza di senso di responsabilità dei dirigenti statunitensi che mettono a repentaglio vite umane in una sconsiderata corsa verso la Luna, che anche l'astronautica sovietica è chiamata ad un esame di coscienza e alla revisione dei suoi programmi spaziali. E povero, povero Komarov, in realtà, sì, il cosmonauta che nel 67 perse la vita con la Soyuz 1. Beh, insomma, questo mondo che pende nelle labbra di Radio Mosca, io veramente chiudo gli occhi e non riesco a vederlo. Beh, sì, in realtà è una cosa assolutamente nuova, visto il periodo. Beh, insomma, sì, di incidenti ce ne sono stati. Noi, tra l'altro, abbiamo avuto una piccolissima rubrica che parlava di incidenti meno tragici da questo punto di vista. Sì, non è morto nessuno nei nostri incidenti, neanche tardigradi sono morti, ripeto. No, nei nostri incidenti, negli incidenti che incentivavamo noi qui da Radio Forte non moriva nessuno. Beh, siete sempre all'ascolto di Boca Chica Cosmodrome e questa sera trattiamo un argomento, come dicevamo, molto, molto particolare, a cui noi teniamo molto e che abbiamo trattato anche in passato, cioè abbiamo più volte dialogato, l'abbiamo più volte citato. Per quel che mi riguarda, l'argomento inizia nel 2018, quindi si tratta di qualche cosa di un po' antico e tutto parte da un articolo di Mirko Kovic, un analista svizzero, alla Svizzera torna, tra l'altro forse dovremmo fare una rettifica sulla Svizzera, su un'informazione data qualche tempo fa ma ancora non abbiamo avuto modo. La commissione sta ancora lavorando. Si sta ancora lavorando, però insomma intanto lo diciamo. Intanto metteremo sicuramente il link dell'articolo sul nostro Telegram, però intanto chi se lo volesse andare a cercare, si tratta della rivista Eon, Ruling Space, quindi regole dello spazio. Mirko Kovic parte proprio dalla constatazione abbastanza banale da questo punto di vista che non ci sono regole nello spazio se non il trattato del 67, trattato in realtà più simbolico che non pratico, e ci pone di fronte alla possibilità intanto che le regole siano molto complesse da essere messe in campo e poi dal fatto che non esiste proprio un quadro normativo di regole condivise da coloro che accedono allo spazio e che cominciano a vedere lo spazio da un punto di vista commerciale. Sì, ne parlavamo la puntata scorsa, ci sono adesso dei campi contrapposti e comunque nessuno di questi campi ha raggiunto il livello di multilateralismo dei primi trattati. No, tra l'altro quello del 67 è costantemente smentito da questo punto di vista, perché mentre lì... Perché era vago di per sé. Vabbè, comunque l'unica cosa non vaga era che nessuno potesse considerarsi proprietario dei corpi celesti, no? Che anche un giorno in cui chiunque, qualunque tipo di nazione si fosse prodigata ad accedere allo spazio non poteva accaparrarsi dal punto di vista delle proprietà pezzi di corpi celesti. Sì, diciamo, l'abbiamo visto anche nella puntata scorsa. In realtà poi ci sono interpretazioni diverse. C'era la questione dello spazio come il fondale oceanico che abbiamo visto l'altra settimana. E quindi vuol dire che comunque, malgrado per alcuni quello che è scritto nel trattato sia estremamente chiaro, per altri purtroppo non lo è. Mirko Kovic ci fa notare che in realtà si tratta di un trattato quasi simbolico da questo punto di vista, sottoscritto sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Sovietica, perché in quel periodo queste erano le potenze, a parte il satellite di San Marco, ricordiamo, che, sempre che una potenza di per sé, esatto, italiano, che era stato nello spazio. Però ci ricorda anche lo studioso svizzero che in realtà si è fatto tanto da quegli anni, ma è una governance, come la chiama lui, in questo campo dal punto di vista spaziale e cosmico, soprattutto sul concetto di colonizzazione, non è mai stato fondato, difficile soprattutto da fondare. E, insomma, quello che Kovic in realtà mette in guardia dal fatto che senza una governance spaziale, senza una serie di regole spaziali, noi potremmo andare incontro a una serie di problemi, dai più gravi ai meno gravi, diciamo, dai meno gravi ai più gravi. Meno gravi è ad esempio la possibilità che in realtà tutte le nazioni che accedono allo spazio e che colonizzeranno i pianeti potrebbero vivere in un'eterna guerra gli uni contro gli altri. Problemi in realtà irrisolti dal punto di vista delle dichiarazioni di indipendenza dei pianeti, e soprattutto quella che lui ritiene il problema più grosso, addirittura il fallimento totale della colonizzazione dell'uomo nello spazio. Questo... Sì, ci sono dei problemi, ne parleremo poi andando avanti. Per cui di fronte a una situazione non chiara, una situazione legale non chiara, è anche difficile pensare anche di investire del denaro in questo genere di impresa, nel senso che con un problema di così gigantesco, chi possiede cosa, o anche ancora prima, si può possedere qualcosa? È difficile pensare di andare avanti in una situazione del genere, quindi in questo senso potrebbe essere non lo sarà alla fine, perché ovviamente queste sono situazioni che verranno forzate, non verranno accettate così come sono, però comunque potrebbe essere un freno. Chi non vuole andare nello spazio dovrebbe essere contento in realtà di questo. Ma io, guarda, tra l'altro su questo sono poco d'accordo con Kovic, perché secondo me il problema non è sicuramente il problema maggiore quello di non andare nello spazio, se non consideriamo che lo spazio e il cosmo possa essere anche la risoluzione umana ad alcuni problemi, tipo lo smaltimento dei rifiuti, tipo la sovrappopolazione. Però in realtà l'idea che si possano creare dei pianeti in cui i coloni vivono effettivamente male, perché come dire, sono falliti tutti i tentativi di creare un sistema armonico da questo punto di vista, un po' ci riporta al racconto di Philip Dick che spesso citiamo, Noi marziani, che consiglio assolutamente di leggere, perché è uno dei pochi romanzi distopici che a me piacciono, perché appunto parla di una colonizzazione fondamentalmente fallita e ce ne elenca e ci mostra in maniera molto chiara quali sono gli elementi di alienazione che tutta questo, diciamo, è una parte sicuramente della vicenda, insomma, la vicenda si articola su più punti, però questo insomma è un elemento molto forte. E tra l'altro, tra altri problemi diciamo, i tre problemi che intravede Kovic sono: intanto chi sarà autorizzato a colonizzare lo spazio, cioè nel senso, ad esempio saranno gli enti statali, o potrebbero essere, noi abbiamo parlato più volte, no? Dal 2000 dall'inizio del secolo noi abbiamo l'entrata in gioco dei privati nella nuova corsa allo spazio, e i privati per la prima volta si pongono obiettivi proprio all'interno delle proprie mission, proprio di terraformazione e colonizzazione dei pianeti. Allora un Elon Musk o un Jeff Bezos possono essere ritenuti autorizzati a colonizzare a nome dei terrestri, del pianeta Terra, un pianeta alieno come Marte. In realtà l'Outer Space Treaty questo problema lo risolve a suo modo, nel senso che la responsabilità delle azioni di un'azienda privata ricade sullo Stato che la ospita. Il problema è cosa succede se l'azienda è una multinazionale, per esempio? Beh, non solo, ma poi se due aziende entrano in conflitto, qual è la legge, qual è la legislazione che in qualche modo dovrebbe reggere, certo, o comunque patrocinare il conflitto quando le due aziende rispondono a leggi completamente diverse. Questo è un problema, insomma, che può essere cogente nello spazio. Quindi questo è il primo problema che Kovic intravede. L'altro è appunto, quindi il primo è chi sarà autorizzato a viaggiare, a colonizzare lo spazio. Il secondo è proprio esattamente quello che citavi tu, cioè l'idea di quale sarà la legislazione, se potrebbe essere forse il caso di iniziare ad immaginare una legislazione comune proprio per evitare questi problemi territoriali, no? questa proiezione dei territori in realtà terrestri nello spazio, che rispondono a leggi e rispondono a principi completamente diversi. Lui fa l'esempio tra, secondo me completamente errato, ma insomma interessante, tra due aziende, l'una che risponde alle leggi per esempio di uno stato autoritario, l'altra che risponde a quelle di uno stato democratico. Nel caso di conflitto, quale sarebbe la legislazione? Come se due aziende di due stati democratici invece non avessero lo stesso problema. Vabbè, ma lui è un liberale, quindi insomma diciamo noi trattiamo, lui ci crede, ma sì noi trattiamo Kovic solo perché ci interessa la sua idea, ma poi dentro è probabilmente piena di contraddizioni. Ultimo problema che mette in luce Kovic è quello della possibilità che le colonie possano e vogliono diventare indipendenti. Anche questo è un tema che abbiamo trattato più di una volta, se ci pensi. È un problema importante, cioè in realtà anche se ricollega poi a quella della legislazione, noi potremmo imporre prodigarci a creare tutta la legislazione e a modellarla a partire da quella terrestre al di fuori dello spazio, ma noi ci potremmo trovare nello spazio, quindi su Marte ad esempio, in condizioni completamente diverse da quelle che prevedevamo, e che quindi la legislazione e le leggi non sono completamente adeguate. Vengono messe in discussione dall'esterno in questo caso. Assolutamente. Soluzione di Kovic. La soluzione di Kovic è interessante ed è quella quella che lui definisce una governance pan-umana. Che cosa significa? È uno specista questo Kovic. Sì, beh, da questo e le intelligenze artificiali? Gli animali stessi. Non hanno giurisdizione, non hanno leggi che li regolino. No, ma io aggiungerei anche un'altra cosa, tra l'altro, perché che Kovic non affronta, quello del modo di produzione. Cioè, consideriamo che per esempio noi andremo fuori dal nostro pianeta comunque contribuendo con un modo di produzione che è quello sostanzialmente al momento capitalistico, tendenzialmente, anche vedendo quelle che sono le tendenze più spinte e più avanzate nel campo del New Space. Sì, gli aborigeni che potrebbero proporre un problema diverso, un modello diverso, non penso siano lì per partire. O quantomeno delle varianti di capitalismo, la Cina da un certo punto di vista, che io non intendo proprio come capitalista, però insomma diciamo con questa sua forma di socialismo capitalista. Mercatista sì, però. Sì. E gli Stati Uniti sicuramente, l'Europa, la Russia, ma comunque insomma forme differenti, diciamo varianti più o meno di un modo mercantilistico di immaginare. Ecco, beh, lì insomma non è detto che su queste lunghe distanze il capitalismo regga, no? Un po' come è stato per l'impero romano. L'impero romano si sgretolò, tra le altre cose, anche per la sua estensione. Quindi è un modello che ha funzionato fino a che, come dire, si è contenuto all'interno di una certa area geografica. I modi di produzione probabilmente hanno anche una definizione spaziale, cioè non solo temporale, non solo legata alla trasformazione dei rapporti di produzione, dei mezzi di produzione, ma anche probabilmente alle loro estensioni. Allora, un modo di produzione... Sognare non costa niente, dici. Esatto. Beh, vabbè, no, non mi vorrei affidare al superamento del capitalismo grazie a quello spaziale, perché ovviamente ci metteremmo troppo tempo. Allora, qual è, per andare a stringere molto, poi insomma, se vi leggete l'articolo troverete sicuramente più approfondito. Qual è l'idea che pone Kovic? La prima è quella appunto di una governance, di un governo panumano. Panumano che cosa intende? Cioè che intende che in realtà all'interno ci siano tutti gli umani appartenenti a tutti i pianeti del sistema solare. Allora vi chiederete voi, beh, ma insomma gli umani in questo momento sono solo ed esclusivamente sul pianeta Terra. Infatti lui propone una ONU, una sorta di ONU, il che è interessante, no? Perché poi fondamentalmente penso che si tratti ancora di un organismo che non funziona, ma forse l'unico che ha tentato di mettere in comunicazione anche nazioni che tra loro non lo erano. Quindi insomma un esperimento umano forse darei più riusciti dal punto di vista almeno illuministico, poi insomma, dal punto di vista pragmatico forse un po' meno. Sì, è un po' più discutibile, sì. La cosa dal punto di vista di questo governo panumano, noi che cosa avremo sicuramente una ONU interplanetaria secondo Kovic, di cui però al momento, in questo momento, l'unico pianeta abitato, il che non significa che gli altri pianeti non possano essere dentro questa ONU, è giustamente la Terra, in vista però che anche altri pianeti ci sarebbero dei seggi vuoti. Esatto, è bravo, questa è un'ottima osservazione. L'ultimo punto che vorrei sottolineare dell'idea interessante di Kovic è esattamente questa, quella forse un po' più vaga ma quella più interessante. Lui dice che in realtà, proprio partendo dal problema iniziale della governance, cioè noi non abbiamo delle regole e non sappiamo neanche benissimo come le regole potrebbero essere, poi possiamo immaginarci il punto finale, il punto d'arrivo finale di questa moltitudine multiplanetaria. Allora lui immagina questa ONU spaziale, interplanetaria, cosmica, in cui noi dovremmo retrospettivamente, lui parla proprio di reverse engineering da questo punto di vista, cioè noi dovremmo, tornando indietro, ricostruire le tappe che ci porterebbero poi alla costruzione di un'ONU interplanetaria già esistente. Quindi noi dovremmo in qualche modo presupporre che già esiste, che noi già ne facciamo parte, però con la riserva mentale di lavorare progressivamente a costruire tutte e a mettere in campo tutte le strategie più corrette per giungere a quel risultato dal punto di vista della governance, dal punto di vista delle regole e dei governi. Faccio un esempio, ad esempio lui fa quello del proprio appunto delle autonomie interplanetarie, delle autonomie planetarie, e lui dice: noi dovremmo già immaginarci all'interno di questa ONU una serie di autonomie legate a Marte, alla zona temperata di Venere, ma anche ai lunatici, alla Luna, in cui presupponiamo che questi pianeti abbiano già una loro totale autonomia, abbiano loro già un loro seggio all'interno di questa ONU interplanetaria, e quindi dovremmo cominciare a immaginarci una governance, un insieme di regole che preveda che tutti questi pianeti non saranno semplicemente degli avamposti terrestri, ma diverranno dei veri e propri pianeti, diciamo governi autonomi da questo punto di vista. Sarebbe buffo che se poi questi pianeti rifiutassero questa autonomia che gli viene offerta, in questo modo ci fossero delle rivoluzioni per rimanere dipendenti dalla Terra. Certo, sarebbe molto un capovolgimento. Però se ci si pensa, sulla Terra è sempre stata così, colonie, stato così, quindi l'idea è tutt'altro che pellegrina. Insomma, ci sembra un punto di vista interessante, tra l'altro con quel minimo di fantascienza dovuto a questo reverse engineering in cui si giungerebbe poi ad un governo a posteriori. Però a questo punto, per non farla troppo lunga, tanto ci ritorneremo con una sorta di aggiornamento da parte del nostro Pimo, io vi propongo il primo brano musicale. Eccolo che arriva. Thank you. E ovviamente questo era Tommy Taisao, tutti l'avete riconosciuto. Tutti noi, noi sì. Assolutamente, no. Assolutamente. Assolutamente. E non sei. Scusami, cioè, vai, scusami. Non vi siete persi niente. Dicevo, pronunci benissimo il giapponese, mettendo anche il cognome prima del nome. Proprio sei un nipponico. No, vabbè, il giapponese, sono stato vissuto tantissimo, esatto, in Giappone. Nel profondo. Abbiamo svelato il vero passato di Pompon. Esatto. Comunque, torniamo un attimo in studio, perché il primo discorso sulla ONU l'abbiamo finito, ma lo riprenderemo. Intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Boca Chica Cosmodrome, e l'unica trasmissione che parla di espansione del capitalismo nello spazio, e lo fa dalle frequenze di Radio Forte nel centro sociale Forte Prenestino, il centro sociale occupato e gestito Forte Prenestino di Roma, e lo fa benissimo in diretta tutti i giovedì dalle 9 fino alle 10. A questo punto io introdurrei quello che è il nostro cooperatore e collaboratore preferito insieme a Ray Max, non abbiamo altri, abbiamo solo questi due, che è preferiamo tutti e due moltissimo, ci piacciono, li vogliamo tutti e due bene, che è Andromalis, agitatore culturale di cui abbiamo parlato tante e tante volte, che ha la sua rubrica Catu Barada Nikto, che si occupa soprattutto ed esclusivamente, direi, di fumetti underground spaziali, a cui siamo molti molto grati, perché ogni volta ci fa questo servizio e ci fa sognare. Noi l'abbiamo un po' risoprannominato il Ghezzi dei Noantri, o comunque il Ghezzi underground. Lui intende Dori Ghezzi, però, eh? Ma certo, sempre quale altro Ghezzi esiste, scusa? Nessuno. Ah, giusto, no, è vero, in sostanza. E quindi Andromalis. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Oggi vi parlerò di Decore, il marziano è vivo e lotta insieme a noi, un fumetto collettivo del Galeone Editore a cui ho partecipato con gioia insieme a Tilf, Croma e Aladdin, Sergio Sgarbi, Jump, Nigra Pica e Marta Bianchi, Mark About, Erpinto e Yest. Era il 2018 ed immaginammo che un marziano atterrasse su Roma, proprio come quel marziano del geniale racconto di Ennio Flaiano del 1954. Il signor Kunt, si chiamava così il personaggio di Flaiano, aveva parcheggiato la sua aeronave sul pratone del galoppatoio di Villa Borghese, cioè a metà tra la downtown del vecchio centro storico e la collinetta pinciana, il cui declivio è Via Veneto, che allora sembrava essere il nuovo centro di Roma e del mondo intero. Qui Kunt aveva consumato tutta la sua vicenda terrestre, o meglio, era stato esso stesso consumato dai terrestri, che dopo un'idolatra curiosità iniziale, una volta abituatisi e digeritolo, lo avevano infine spernacchiato. Se un marziano a Roma di Ennio Flaiano finisce con una pernacchia di addio, il nostro racconto inizia con uno sparo di benvenuto e a Tor Sapienza, nella periferia sud-est, a 1000 anni luce da Via Veneto. Salvato dai bambini mutanti di Viale Morandi, il nostro inizia un pellegrinaggio satellitare nei quartieri della periferia romana. Ogni autore un quartiere, dal quarticciolo di Croma a Centocelle di Aladdin, fino a Prima Valle di Giampa al Laurentino 38 di Marco About, e ogni volta il marziano, l'infinitamente diverso, si ritrova ad inventare un codice di relazione e contatto con un territorio infinitamente distante. Il marziano conosce un unico modo, è la concessione gratuita del sé. Ogni volta, infatti, egli regala uno dei suoi apparentemente infiniti cuori, che a seconda della reazione con il territorio e i suoi abitanti si trasforma in mortaretto esplosivo, anima guida, dipinto murale, frattaglia da cassonetto, caramella o metafora, ma ogni volta in un fertile innesco di possibilità. L'ultimo capitolo è ovviamente all'idroscalo di Ostia, dove nel 1975 un altro marziano era stato espulso dal consesso terrestre. Ma questa volta finirà diversamente? Eh beh, sempre grazie, è sempre molto psichedelico il nostro Andromali. Ma finirà diversamente, io rimaniamo così noi. Beh, ma leggetevelo, leggetevi. Leggiamo, cioè, leggetevi decor. Tu l'hai letto? Sì, e come letto. Finisce? Non solo l'ho letto. Te lo ricordi? No, non solo l'ho letto, ma è un fumetto a cui sono molto, molto affezionato, perché è il fumetto con cui ho conosciuto Andromalis. Ah, pensa. Sì, su una presentazione di Decore noi ci siamo conosciuti, quindi insomma sono affezionatissimo. Ma come osava parlare di marziani senza dirti niente? Scusa, com'è possibile? Me lo sono chiesto anch'io, infatti poi il caso ha voluto che ci incontrassimo. E devo dire due cose: intanto che lo stesso Andro vuole fare una rettifica su questo, su quanto esatto, detto. Esatto, ci ha detto di rettificare. Di scusarsi, in realtà si chiama Mauro Sgarbi. Esatto. Uno degli autori citati. Però la cosa che ho più volte chiesto ad Andro, e mi sorprende la sua risposta in questo, perché lui appunto si rifà Ennio Flaiano, cita Ennio Flaiano, però non cita Ciao Marziano con Pippo Franco. Bellissimo film esoplanetario, secondo me, in cui un esilarante Pippo Franco interpreta un marziano caduto a Roma. E non mi ricordo il regista in questo momento, non mi viene, stavo pensando in questo momento. Un Pippo Franco un po' Bowie. No, però, sì, esatto, un Pippo Franco un po' Bowie, però in cui in realtà ci sono tutta una serie di elementi controculturali interessanti. Addirittura? Oh, guarda, ogni volta che tento di ricordarlo. Malgrado Pippo Franco, ogni volta che tento di ricordarlo ad Andro, lui un po' si stranisce, quindi non lo faccio più. L'ho fatto in questa occasione. Lui non piace per l'ultima volta. L'ho fatto per l'ultima volta. Non mi rivolgerà assolutamente mai più la parola. No, vabbè, no, assolutamente. Insomma, la cosa è molto meno forte. Però, insomma, secondo me il riferimento c'è tutto. Anzi, ve lo straconsiglio il film Ciao Marziano. E a questo punto, Bimo, riprendiamo un po' il discorso, esatto, sulla ONU interplanetaria. Se esatto, non diciamo non esattamente un'ONU interplanetaria, però comunque l'ONU c'entra lo stesso. E prendiamo spunto da un articolo che è comparso su un sito che si chiama spacenews.com. Il link dell'articolo comparirà magicamente nel canale Telegram, speriamo. E che si occupa sostanzialmente dello stesso problema, cioè i trattati internazionali che regolano o dovrebbero regolare l'accesso allo spazio sono insufficienti. Il meccanismo che noi abbiamo per farne di nuovi è inadatto, l'ONU così come adesso, e ci troviamo nella situazione di avere un certo bisogno che alcune questioni vengano definite. Soprattutto la questione della chi possiede cosa. L'estrarre delle risorse dallo spazio è un tema che è venuto a ondate. Ci sono aziende, sostanzialmente negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra e in Europa negli ultimi tempi, nelle ultime ondate, che sventolano mirabolanti futuri in cui i problemi di approvvigionamento della Terra verranno risolti, almeno di minerali e di materiali rari verranno risolti, e si propongono come soluzione appunto del problema, e per questo cercano dei soldi per appunto realizzare questo mitica estrazione. I soldi li hanno e dopo un po' falliscono, e questo è avvenuto in diverse ondate nel passato, però c'è da dire che ogni ondata si trova in una situazione di contorno leggermente migliore della precedente, e quindi è possibile pensare che a un certo punto effettivamente si passi dal rubare dei soldi ai ricchi, che rende queste aziende dei piccoli Robin Hood, se vogliamo, e se non fosse che chi le possiede è ricchissimo a sua volta, a effettivamente realizzare questo sogno. Questo è un sogno appunto capitalista. Noi ci occupiamo di capitalismo spaziale, e quello che in inglese è detto space mining è uno dei grandissimi cavalli di battaglia del capitalismo spaziale. Beh, soprattutto, sicuramente il primo, quello più attrattivo. Io tra l'altro volevo aggiungere una cosa che forse tu non citerai, questa ricerca, di cui adesso non so dare le coordinate, ma anche questo aggiungeremo su Telegram, che ricorda che da 20 anni a questa parte sulla Terra non vengono più trovati, non sono più stati trovati nuovi filoni di terre rare così, come dire, così capienti come quelli trovati in passato. Quindi esatto, le estrazioni di terre rare, cioè, non sono finite sul pianeta, cioè non è che sono terminate, ma divengono sempre più costose proprio perché sono più rarefatte. I grandi filoni di estrazione non esistono più, sono stati completamente utilizzati. Qualcosa esatto, poi viene riutilizzato, nel senso che viene sicuramente riciclato, però l'estrazione oggi comincia a diventare sempre più costosa sulla Terra. Per contro, invece, ci sono asteroidi a distanze variabili dalla Terra che promettono un'abbondanza quasi senza fine di questi materiali. Ne avevamo parlato anche nella vecchia edizione. C'è addirittura un sito che si chiama Asterank che stima il valore dei vari asteroidi e si arriva a delle cifre che sono veramente al di là dell'immaginazione. C'è un asteroide che si chiama Davida che a quanto pare vale 25 miliardi di miliardi di dollari e quindi la posta in gioco è gigantesca, senza arrivare fino a Davide che è piuttosto lontano, adesso non ricordo bene quanto, ma lo era abbastanza. La Luna stessa ha delle riserve di Elio 3, per esempio, che potrebbe garantire una produzione di energia pari a 10 volte le riserve di combustibili fossili sulla Terra. Quindi il problema diventa sempre più imminente e sempre più grave e sempre più rischioso per le ragioni che diceva Cobol prima, cioè di fronte a una risorse e a potenziali profitti giganteschi e a una situazione in cui l'accesso a queste risorse non è minimamente regolato, quindi siamo al Far West, l'esito più probabile è un conflitto che sarebbe, diciamo, bene evitare forse. Ma secondo te non si pone anche un problema proprio di valore? Non so se ci arriverai, nel senso che se io trovassi un asteroide completamente, come dire, fatto d'oro e riuscissi a portarlo sulla Terra, sicuramente il valore dell'oro da questo punto di vista... Ma io non lo porterei tutto sulla Terra. Ok. Non sono mica scemo io. Però comunque avrei una riserva d'oro e chiunque vuole dell'oro dovrebbe probabilmente venire da me. E comunque, quindi la situazione è questa e ci sono, per esempio, tra l'altro, parlando sempre della Luna, ci sono degli accordi che in teoria regolerebbero l'accesso alle risorse della Luna, che sono degli accordi assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda dell'Outer Space Treaty, che però hanno il problema che i paesi ratificatori sono una ventina e l'unico paese, diciamo, di rango dal punto di vista dell'attività spaziale è l'India. Quindi sono degli accordi che non valgono nulla. A questo punto la situazione sembra disperata, cioè noi abbiamo degli accordi che non valgono nulla, un meccanismo per farne di nuovi che è troppo lento e non funziona e quindi siamo finiti. L'articolo di Space News propone un approccio un po' meno ambizioso rispetto a quello di cui parlava Cobol prima, ma comunque probabilmente troppo ambizioso, che consiste nel rendere il processo che porta a questo tipo di accordi più veloce. In che modo? Sostanzialmente rivoluzionando come funziona l'ONU, quindi eliminando il Consiglio di Sicurezza e trasformando l'ONU in una sorta di Parlamento in cui tutti i paesi sono pari e esprimono un voto e quindi che produce delle leggi che sono in qualche modo vincolanti. Probabilmente anche per quanto meno estremo come approccio rispetto a quello di cui parlavamo prima, anche questo lo è troppo e probabilmente non andrà a nessuna parte, però il problema è ben chiaro, se ne parla ormai da parecchio tempo. Uno degli approcci che avevamo visto sono gli accordi Artemis della squadra americana, che hanno i problemi che dicevamo l'altra volta, non sono degli accordi multilaterali, sono degli accordi bilaterali, fraintendono una serie di questioni. Vedremo nelle prossime puntate chi si contrappone o chi si affianca agli accordi Artemis, però sta di fatto che una soluzione non è in vista. Io vorrei ricordare che sull'Asteroid Mining esiste anche una bibliografia tecnica da questo punto di vista, anzi sul nostro canale Telegram mi tento di ricordarmi, tu Bimo, anche tu Ray, mi ricorderete di elencarla, ma esiste proprio una documentazione tecnica, quindi esistono proprio dei manuali che spiegano quali sono allo stato dell'arte le tecniche più note e più riuscite di Asteroid Mining, perché ci sono stati già tutta pura... No, perché ad esempio Rosetta e anche una sonda giapponese di cui adesso non ricordo bene il nome hanno fatto asteroidaggio, sono atterrati sugli asteroidi e hanno prelevato materiale dagli asteroidi. Dimmi, Ray. No, dicevo che tra l'altro i nostri amici cinesi si stanno preparando la Terra, non su un asteroide ma sulla Luna, quindi ci sono già degli esperimenti. Ci sono state delle esperienze. Sì, sì, è meno fantascienza di quello il, che... Sì, il, diciamo, l'approccio cinese al problema, adesso lo anticipo, ma ci sarà un approfondimento nelle prossime puntate, è giusto? Sì, l'approccio cinese, diciamo, della squadra cinese di cui fa parte anche il Nicaragua, per dire, è sostanzialmente far finta di niente, nel senso che si parla di... progresso scientifico e di utilizzo delle risorse, ma senza andare molto nello specifico, il che è permette di non dire delle cose sgradevoli come quello che è successo agli accordi Artemis, ma lascia degli spazi inquietanti di manovra. Va bene, siete sempre su Boca Chica Cosmodrome e sempre in diretta su Radio Forte dal CSO a Forte Prenestino di Roma, come ogni giovedì dalle 9 alle 10, e a questo punto la regia manda un nuovo brano musicale. Allora, il brano lo lancia Ray Max questa sera, si chiama War of the Satellites, dei Ventures, un gruppo chitarristico degli anni 50 ancora in attività, credo che non ci sia neanche un membro originale rimasto, rimasto così come i Mattia Bazzar, in realtà come i Sonics, come mille altre cose, fra un po' anche i Rolling Stones probabilmente, però, e anche, vabbè, gli Alan Parsons, però qua credo che questi, però gruppi, si chiamano Alan Parsons, questi sono i gruppi chitarristici che, come qualcuno di noi sa meglio, erano solamente dovevano fondamentalmente pubblicizzare le chitarre Fender, no? E, sì. E in realtà hanno continuato, questi credo fossero famosi soprattutto per Hawaii Five-O, la sigla di un programma televisivo. Si ricollega a un discorso sulla fantascienza un po' più di una fantascienza che faceva prima Cobol. In realtà l'ho scelto dopo una conversazione fatta con Andrea da Roma, un nostro ascoltatore che ci aveva contattato parlando di quanto in realtà lui si è arrivato a occuparsi di certe cose per via del cinema di fantascienza, anche quelli di serie B, tipo quelli del povero Roger Corman che ci ha lasciato di qualche giorno fa, che aveva fatto un film che appunto si chiama War of the Satellites. Ma per chiudere, Roger Corman, che chi lo sa, forse qualcuno lo sa, non faceva cose a bassissimo budget, girava i film in 2 giorni, massimo 3, non utilizzava vere e proprie colonne sonore, quindi non esistono vere colonne sonore dei film di Roger Corman. I Ventures registrava la radio. I Ventures hanno fatto un brano con lo stesso titolo di un B-movie, quindi War of the Satellites mi sembra particolarmente adatto a Boca Chica Cosmodrome. Eh sì, bravo Remax, siete sempre a Boca Chica Cosmodrome, come diceva Remax, siamo sempre in diretta da Radio Forte nel cesso a Forte Prenestino di Roma, e a questo punto io lancerei una delle nostre rubrichine preferite, che è Cuore Matto. Tatan, Remax. Quindi sono sempre io con un nome nuovo di rubrica, perfetto. Buonasera a tutte e tutti. Allora, la prima domanda arriva dal... Noi abbiamo una chat su Telegram che si chiama Boca Chica Cosmodrome. Siamo sorprendenti. Esatto, siamo disarmanti. Siamo monomaniaci. E Alex, almeno così è l'alias, vabbè, e ha mandato un interessante articolo sui trenini spaziali che io ho letto, penso anche voi. Ah, sì. Ecco, che cosa volete raccontare sui trenini spaziali? Io mi chiedevo cosa fosse un binario a pellicola. Il binario a pellicola. Io lo volevo chiedere a te, chissà perché. Ho chiesto nel canale di che cosa si trattasse, mi è stato risposto non penso, da quello che tu mi chiedi penso. Sì. E quindi io ancora non lo so. Però era interessante, puoi raccontare un po' tu qual era la storia di questi trenini spaziali? Beh, la storia è che probabilmente per... Scusa, che trenini spaziali non è un B-movie anni 70, un po' così. No, in realtà probabilmente era uno di questi studi commissionati per probabilmente elargire dei soldi a qualche cugino di qualcuno, che ha progettato tutto un sistema di trasporto sulla Luna, dove al momento attuale non vive nessuno, e neanche a medio lungo termine non si prevede di aver bisogno di sistemi di trasporto, ma c'è già un progetto di un sistema di trasporto con questi treni a levitazione bellissimi, con il la pellicola che non si capisce cosa sia, in effetti. Tutto mi ricorda il bellissimo monorotaia di Perugia, il mini metro. Sì, ma il problema è era a pellicola? Non era pellicola. Immovibili, da quello che ho letto. Delle strutture che si possono poi srotolare. Ah, tipo, in questo senso, dei tappetoni. In questo senso, dei tappetoni. Ah. E quindi dal punto di vista, diciamo, è veramente affascinante. Sì, è un momento di sorpresa. Quindi, sembrava qui a Boca Chica. Tipo il pesce d'aprile dell'anno, del millennio, oppure qualcosa di interessantissimo. Vabbè, sicuramente è adesso tornando seri, tutto questo ambito è un ambito di speculazione più o meno selvaggia, nel senso che è tutto da immaginare, quindi si può immaginare sostanzialmente qualsiasi cosa, e quindi anche queste soluzioni fantastiche. Sarebbe carino fare dei treni a tappetone sulla Terra. Treni a levitazione, tra Sì, tappetone a levitazione. Li stanno già facendo, vabbè. Il tappetone? La levitazione sì, no. Ma non col tappetone? In Germania ci sono, voglio dire, anche in Giappone. Però senza tappetone, è la pellicola che mi... Sì, che questa cosa si può srotolare e quindi portare... No, io pure, anche perché l'altro progetto che ho letto ultimamente, un articolo che avevo pure condiviso, era su macchine volanti nello spazio. Mi chiedevo come puoi fare macchine volanti a proprio tipo piccoli elicotteri in mancanza di gravità, cioè non mi torna. Beh, no, allora ci sono degli elicotteri che per esempio hanno volato su Marte. Sì, completamente senza atmosfera non è possibile, quindi nello spazio no, lì su Marte, no, perché certo, c'è un po' di atmosfera. Certo, c'è un po' di atmosfera. A me invece di tutto ciò ricorda un... Si può anche volare sulla Luna, saltare per esempio. A me tutto ciò ricorda invece non proprio un B-movie, ma insomma un film... discutibile di fantascienza, un film discutibile di fantascienza che si chiama Space Tracker. Ah, Tracker, sì, vabbè, certo. Il film che vediamo noi, scusa. Esatto. Certo, di cui camionisti spaziali, che mi ricordava appunto questi tracker che sembravano dei treni e che percorrevano queste autostrade spaziali, di cui l'elemento che ancora mi ricordo un po' rubato da Cowboy Bebop, esatto, in un modo schifoso. Sì, è vero, è vero. Elemento che io mi ricordo molto, siccome questi dovevano ottimizzare i trasporti, i maiali quadrati. Povere bestie, detto da un antispecista, è tutto molto molto grave. Vabbè, insomma, avevo rimosso, però sì. A questo punto mi ricollego, anziché avevo una domanda sulle pulizie di detriti spaziali, posso ricollegarmi a quello che dicevi prima su Flaiano? È la tua rubrica, se non in dura realtà, un'ora. Hai solo un limite di tempo. Io non ho né letto né visto la commedia di Flaiano di cui tutti parlano, però ho visto il film con Pippo Franco, Pippo Franco verde, diretto da Pingitore. Bravo, un film veramente memorabile. Martufello cosa? Non ricordo se c'ero dormivo o ho rimosso, e c'è anche una serie, in realtà il film di Pippo Franco è proprio tratto dalla commedia di Ennio Flaiano, cosa che già e c'è anche una serie televisiva Rai, perché è dell'83, molto più dimenticabile e rimovibile di quella di Pippo Franco, che invece altro per vedere Pippo Franco dipinto di verde, inauguriamo tipo i Rockets ma verde. Inauguriamo una nuova specialità di Wiki Ray? Una nuova specialità di questa seconda edizione di Bocca Chica Cosmodrome, le citazioni a posteriori. Allora, la prossima volta mi ricordo di portare due citazioni fantastiche da Marziano a Roma, insomma, diciamo da Ciao Marziano, scusate, di Pippo Franco, che avevamo portato anche nella prima stagione, a questo punto le riproponiamo perché, come dire, in qualche modo ci introducono allo spessore di questo film che è tutta una pellicola. Che viene assolutamente canzonato, ma in realtà da un certo punto di vista è un filmone. Per l'importante è non citare mai Flaiano. Noi possiamo leggere la sceneggiatura di E l'altro porterò anche una citazione da un film di cui il titolo adesso non mi ricordo, ho tentato di farlo fin da quando ne parlavamo, sullo space meaning, quindi sull'asteroidaggio, proprio in cui Avatar. No, degli anni 60, su cui avrò delle cose da dire, insomma, però le porto la prossima volta, magari facciamo apriamo un piccolo spazio retro, cioè legato alla puntata precedente in cui citeremo dei filmacci in cui ci siamo dimenticati di portare i pezzi al momento giusto. Vabbè, a questo punto siamo sempre su Bocca Chica Cosmodrome e siamo sempre in diretta dal cesso a Forte Prenestino. Un ultimo brano musicale, poi rientriamo in studio, vi salutiamo e ci rimandiamo alla prossima puntata ricordandovi tutte le coordinate della trasmissione. Tenetevi forte. Thank you. Ruvidezza Tari, Bimo? Questa Ruvidezza Tari, questo è dedicato a Kenobi, che era qui la prossima settimana. Questo, la scorsa, la prossima. Scusate, siamo ai paradossi temporali. Esatto, viaggiamo veramente avanti e indietro. Avanti indietro senza proprio nessuna remora. Comunque, questo è una partita di un gioco dei primi anni 80 che si chiamava Defender, un gioco Atari che esisteva sia in versione sala giochi che in versione casalinga sulla console sull'Atari 2600. Questo in particolare è preso da una partita sulla versione, diciamo, col cabinet, quindi la versione sala giochi. Ed è un gioco che era difficilissimo, però aveva questo suono incredibile. Questo suono veramente. Io ricordo la prima volta che l'ho incrociato in una sala giochi all'epoca e rimasi sconvolto da come suonava questo gioco. Provai a giocarlo, la mia partita durò una frazione di quelle che abbiamo sentito nel brano, però il suono mi è rimasto assolutamente. Mi colpì moltissimo e quindi ho voluto condividere con voi questa mia piccola passione. L'Atari ha fatto parte anche della scena 8-bit nell'inizio del secolo, quindi assolutamente molto molto belli. I suoni erano profondi, erano ruvidi, potentissimi, soprattutto a onda quadra. Sono veramente veramente veramente incredibile, secondo me. Tu, Ray, non hai nessuna citazione in merito. Questo non è stato un gioco che non era scritto da Neo Flaiano, no? Sono poco un gamer. Pippo Franco non ha giocato. Era bellissimo. Non possiamo dirlo al 100%. Bisognerebbe chiedere a lui. Hai ragione, potrei essere smentito. Vabbè. Ray, tu che conosci Pippo Franco. Non ho giocato a Defender, è bellissimo. Adesso... Vabbè, avrete capito che ci troviamo su Boca Chica Cosmodrome e che siamo anche un po' buon temponi a volte, ma soprattutto che si tratta della unica trasmissione al mondo che si occupa di espansione del cabismo dello spazio, perché e che manda una partita di Defender come pezzo musicale. Esatto, perché pensiamo che la questione sia cogente, importante e soprattutto da approfondire. Beh, siamo giunti alla fine della settima puntata di questa seconda stagione. Io vi ricordo che vi potete ascoltare tutte le puntate finora andate in onda della seconda stagione sul sito, ma anche e soprattutto quelle della prima stagione di un paio di anni fa, e su forteprenestino.net nella slot Radio Forte, nella slot Boca Chica Cosmodrome, e dentro appunto troverete tutte le puntate con anche una sinossi e con varie altre piccole sorprese. Sinossi non fatta da un chat GPT. Ah, adesso è il caso di, è vero, ormai è il caso di doverlo... Sinossi fatta a mano. A mano. Un po' come dire, ho fatto questo tappeto, l'ho fatto a mano. Esatto. Vabbè, ho cucinato questa pasta. Ho fatto questo bicchiere di plastica, l'ho fatto a mano. È giusto, sono rimasto un po' indietro da questo punto di vista. Quindi vi ricordo per ultimo il nostro contatto Telegram, potete porre domande, c'è il solerte Remax che le raggrupperà e ce le porterà qui in diretta e potremo rispondere, e comunque aggiungiamo materiale, quindi vale la pena iscriverci anche per testimoniarci la vostra presenza e il vostro affetto e amore. La scorsa edizione ponevamo dei piccoli premi, quest'anno non ne abbiamo, però potete chiederci l'adesivo, forse qualche adesivo ancora. Infatti, lo abbiamo. Sì, qualcosina forse sì. Beh, non ci rimane che darci appuntamento a giovedì prossimo, sempre in diretta, sempre su queste frequenze, e quindi la nostra sigla di chiusura.